Buongiorno e benvenuti a tutti per essere alla conferenza stampa dell'ottava edizione di Festival Mente Locale Visioni sul Territorio. Il festival per la prima volta si svolgerà in forma ibrida quest'anno in sala, finalmente torniamo nei cinema dei territori del festival e online sulla piattaforma Doca Casa della DER. Quest'anno il festival si è aperto principalmente al genere del documentario. Abbiamo ricevuto tanti film in concorso, ne abbiamo ben 18 nella nostra sezione ufficiale del concorso e si è svolto con una prima finestra estiva nelle arene estive del festival per poter vedere in sala i film che nel 2020 abbiamo visto principalmente sulla piattaforma Doca Casa. E i luoghi del festival in cui si svolgerà la manifestazione sono a partire dal 17 di novembre il Cinemax di Bazzano in Valsamoggia. Il 18 di novembre saremo al Cinema Bristol Multisala di Savignano sul Panaro, il 19 al Cinema Vittoria di Loiano, il 20 e il 21 per la prima volta al Teatro Fabbri di Vignola. È qui con noi Fabio Abagnato della Film Commission, gli lascerei la parola. Ciao Fabio, buongiorno. Eccoci qua, grazie a voi, buongiorno a tutti. Poche parole, nel senso che il nostro accompagnamento a questo festival è costante nel tempo. È un festival che conosciamo da tempo per la sua originalità e anche coerenza con alcuni aspetti del nostro lavoro quotidiano, cioè il fatto di rendere sempre più aderente la produzione audiovisiva al territorio che deve rappresentare, raccontare e, come dire, mettere in connessione con aspetti comunitari che alle volte non vengono rappresentati. Quindi noi siamo molto contenti dell'estensione anche territoriale che sta trovando la progettazione del festival. Devo dire che forse è il festival più metropolitano che sosteniamo, nel senso che interpreta fino in fondo il tema di un'area estesa metropolitana che abbraccia anche due territori che anche in altre politiche ragionano in maniera coordinata, che è il territorio di Bologna e Modena, che su molti aspetti di programmazione territoriale, politiche turistiche, politiche ambientali trovano delle dinamiche di collaborazione e ancora di più lo è quando cominciamo a ragionare sulle aree, chiamiamole interne per comodità di programmazione di politiche pubbliche, ma in realtà è molto di più che aree interne, sono identità territoriali, sono storie, sono luoghi di aggregazione, sono sviluppo economico sganciato dalle dinamiche urbane, mentre locale si fa carico di un racconto per noi necessario. Quindi da questo punto di vista siamo contenti anche della programmazione che siete riusciti a mettere in campo anche quest'anno, dopo le bellissime esperienze fatte su diciamo lo streaming ineludibile, però che avete interpretato bene anche nel rapporto con le scuole, con le nuove generazioni, quindi tutte le esperienze fatte nei mesi precedenti. E qui finalmente siamo in sala di persona e con eventi che andremo a raccontare. Sono anche curioso di partecipare alla tavola rotonda che avete costruito per il 18 al Dams Lab, perché avete messo insieme tanto dei colleghi con cui ho sempre il piacere di collaborare, colleghi della Toscana e della Sardegna, ma anche con esperienze artistiche molto particolari, anche molto crossover rispetto al linguaggio, perché da un lato Cabidue e dall'altra Zimmer Frei, insomma, abbracciano linguaggi diversi e poi ci accompagnerà Cucco in questa tavola rotonda. Quindi in bocca al lupo per la programmazione, avremo modo finalmente di ritrovarci insieme.